Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Dopo mesi di attesa, la Commissione europea ha dato il via libera al ferro bonus, cioè l'incentivo introdotto dalla legge di stabilità per favorire l'intermodalità gomma-ferrovia. Secondo Bruxelles, il provvedimento non va contro i principi comunitari, non distorce le regole del mercato, anzi favorisce trasporti più sostenibili con ricadute positive sull'intero sistema della mobilità, quindi di merci ma anche di persone. Non è invece ancora arrivato il via libera per l'altro incentivo a favore dell'intermodalità, il mare bonus. In questo caso a frenare è il Consiglio di Stato, che nelle scorse settimane aveva giudicato l'incentivo non conforme al diritto comunitario, non tanto sotto il profilo tecnico normativo quanto in merito alla mancata indicazione dei risultati che appunto l'erogazione del mare bonus potrebbe determinare. Per il ferro bonus, lo ricordiamo, la legge di stabilità aveva stanziato 20 milioni di euro l'anno per il triennio 2016-2018. Il rilancio dell'intermodalità e più in generale del trasporto merci sui binari passa anche dall'applicazione del quarto pacchetto ferroviario, cioè un insieme di direttive e regolamenti che riordinano le norme comunitarie appunto in materia di ferrovie. Sul quarto pacchetto ferroviario abbiamo intervistato Davide Sassoli, vicepresidente del Parlamento europeo. Beh, la liberalizzazione del mercato ferroviario europeo e la possibilità per tutte le compagnie di andare a gara sui servizi anche negli altri paesi, e naturalmente non è la privatizzazione, è una liberalizzazione dei servizi nella impostazione del provvedimento, che è stato il frutto di una concertazione fra Parlamento, Consiglio e Commissione. Le reti sono pubbliche, la manutenzione è pubblica, mettiamo a gara tutti i servizi. In particolare ci siamo concentrati sull'alta velocità, perché è un know-how molto europeo che può avere anche prospettive di grande competizione di investimenti a livello internazionale. Ecco, a spiegarlo alla casalinga di Voghera? Beh, significherà avere una rete infrastrutturale europea molto più forte di quella che abbiamo oggi, sia nel trasporto locale, nelle tratte di lunga percorrenza e nel settore dell'alta velocità, e quindi ci saranno probabilmente anche dei prezzi per i viaggiatori che saranno diversi da quelli attuali, molto più bassi. In fondo è lo stesso procedimento che è capitato nell'aviazione. 10 anni fa non c'era Ryanair, oggi ce ne sono tante di compagnie low cost che nel mercato competono con le compagnie tradizionali. In Italia significa anche una spinta per il rilancio dell'intermodalità, siamo parecchio indietro. Siamo molto indietro su questo, e naturalmente questo potrà metterci anche in competizione con altri, con altri investitori, però nello stesso tempo per la nostra compagnia, in particolare per Ferrovie dello Stato, sarà una grandissima opportunità di lavoro, perché noi avremo la possibilità di andare in mercati che oggi sono chiusi. Pensiamo alla Francia, pensiamo a tanti paesi europei che hanno sempre alzato le frontiere. In termini di intermodalità esistono già esempi virtuosi. Uno è costituito dal porto di Trieste, lo scalo italiano con i più efficaci collegamenti diretti via treno per il centro e l'est Europa. L'obiettivo è rendere sempre più agevole lo spostamento via ferrovia dei container in arrivo, sia sui trailer caricati su navi RoRo sia sulle porta container. Sul primato dello scalo triestino abbiamo intervistato il presidente dell'autorità di sistema portuale, Zeno D'Agostino. Lo è addirittura a livello europeo. I nostri interlocutori europei ci dicono che le performance di crescita del nostro porto sono uniche in Europa. Parliamo della parte terrestre, diciamo, del porto. Quella marittima va bene, ma quella terrestre va in maniera eccezionale, cioè i traffici ferroviari hanno delle performance di crescita che sono totalmente in controtendenza, non solo in Italia ma in tutta Europa. A livello invece nazionale il problema del trasporto merci via ferrovia è una macchia nera, appena il 7% delle merci viaggia su rotaia. Ci sono dei progetti piuttosto ambiziosi, nel 2030 si parla da almeno del 30%, però indubbiamente la strada è piuttosto lunga. Ecco, guardi, noi oggi siamo a un 40% di traffico ferroviario in porto, naturalmente per la parte terrestre, e addirittura abbiamo, io penso, uno dei terminal più performanti del mondo. Noi abbiamo il molo Sesto, che ha una percentuale di traffico ferroviario in entrata e uscita dal molo del 91%. Io penso che a livello internazionale non esista nessun terminal terrestre, ferroviario, marittimo che abbia una performance di quel tipo. Chiaramente io penso però che ci siano tutta una serie di elementi positivi anche a livello nazionale. C'è una RFI oggi che ha le idee chiare e che sta aiutando, ecco, tutto il territorio nazionale a crescere e a creare le precondizioni per poter creare uno sviluppo della ferrovia in generale e dell'intermodalità in particolare. RFI sta lavorando molto bene, sta lavorando molto bene anche insieme a un ministero che finalmente ha una struttura tecnica di missione che entra in particolare nella funzione delle infrastrutture. Non c'è una costruzione, una pianificazione delle infrastrutture fine a se stessa. Cioè, una volta secondo me c'era proprio una logica di costruzione proprio per la costruzione, e in effetti poi oggi ci troviamo anche con infrastrutture che oggi non vengono utilizzate. Rimaniamo nel nord-est, ma ci spostiamo in Trentino Alto Adige, sempre nel segno dell'intermodalità e quindi all'interno di un sistema di trasporti più sostenibile. La provincia autonoma di Bolzano ha deciso di sostenere la cosiddetta autostrada viaggiante, un sistema che prevede di caricare i tir completi sui treni. Si tratta di uno stanziamento di 9 milioni di euro in 3 anni da destinare direttamente alle imprese. Un dato rende bene l'idea del livello di traffico di mezzi pesanti lungo la direttrice tra Italia e Austria. Ogni anno solo al valico del Brennero transitano 2 milioni di tir, un numero che abbiamo imparato all'inizio dell'anno, dopo la minaccia da parte dell'Austria di ripristinare i controlli in seguito all'emergenza migranti. Ascoltiamo Valentino Pagani, dirigente della ripartizione infrastrutture della provincia autonoma di Bolzano. Uno dei nostri obiettivi come mobilità chiaramente è la sostenibilità, quindi lavoriamo molto per togliere il traffico dalla strada, per togliere il traffico privato, portarlo sul mezzo pubblico e chiaramente togliere anche il traffico dalla strada, dall'autostrada, per portarlo appunto sulla ferrovia. Quindi sfruttando una legge regionale, siamo in collaborazione anche con la provincia di Trento per studiare una serie di contributi da dare a Treno a quello che praticamente per quanto riguarda l'utilizzo dei vagoni per le merci anziché per quanto riguarda invece il trasporto su gomma. Quindi la giunta provinciale si è occupata di questo tema e ha stabilito e stiamo stabilendo alcuni criteri. Avremo a disposizione, vorremmo stanziare circa 3 milioni all'anno per i prossimi 3 anni per poter, con un certo contributo a treno, a vagone, per poter far sì che ci sia un'incentivazione all'utilizzo delle merci su rotaia e di conseguenza un alleggerimento sull'asse stradale dell'autostrada della nostra statale S12 dal trasporto merci su gomma. E riteniamo anche che sia una misura che nel giro di 6 mesi, un anno, quindi nel corso del 2017, possiamo mettere in atto. Un'altra questione importante in questi giorni al centro dell'attenzione è la possibile reintroduzione dei costi minimi per la sicurezza. Si tratta di una delle istanze sostenute da tempo dalle associazioni del mondo dell'autotrasporto. La vicenda è piuttosto complessa e ha avuto una storia, per così dire, travagliata tra interpretazioni, sentenze e organismi diversi ai quali è stata assegnata la competenza a fissare le tariffe. Ora, una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha legittimato i costi minimi purché emanati da un organismo ministeriale e al Ministero dei Trasporti si è già al lavoro. Ascoltiamo il sottosegretario Simona Vicari al microfono di Massimo De Donato. Praticamente Bruxelles ci ha detto: non potete voi far stabilire anche alle associazioni che sono destinatari di queste misure, far partecipare anche loro ai processi decisionali, e quindi deve essere soltanto il pubblico e quindi il Ministero a stabilire questi costi minimi. Nel frattempo l'antitrust si era espressa dicendo che il Ministero invece non poteva avere un'attività di ingerenza su questo fronte, e quindi liti tra istituzioni hanno portato a questa, diciamo, determinazione. Noi stiamo lavorando per capire esattamente con l'antitrust se concorda e conferma invece l'ordinanza che ci ha dato la Commissione europea per poter emettere noi i prezzi minimi sulla sicurezza, e dopodiché saranno pubblicati prendendo ad esempio quelli del carburante, prenderemo quelli del Ministero, certo, delle attività produttive ed altro, e tant'è che noi, quell'organismo che era la consulta che faceva parte di quel processo decisionale, è stata nel frattempo abolita, e quindi adesso ci siamo trovati in una situazione di scontro istituzionale tra istituzioni che adesso stiamo risolvendo, e sono certa che anche l'Antitrust converrà con questa ordinanza e permetterà a noi Ministero di stabilire questi costi minimi. Io mi fermo qui con hashtag Autotrasporti, ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre alle 13.45 in coda ad effetto giorno. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.